ce temps, je vois que ça continue. Même quand tu fermes les yeux, c'est un choc. Encore le monde en drame, les yeux des gosses encore en larmes. La haine, l'amour dans le même parcours. Trop de conscience perdue dans la course. Souffrance, licence, violence. Alors, je pense et lance. Pour mes gens, je garde l'alliance. Car loin le sourire de la chance. Et perds confiance. Mais dans la séance, je garde patience. Mike, fuck, j'ai plus de la conscience. Yeah. Questo cielo perso, quello che spente ha perso. È tutto fumo e vento, una nuvola che va. Così son disperso in questo fumo denso, forse che anche un verso volando arriverà. Uno, due, tre, quattro, quel che fatto è stretto il patto. Uno, due, tre, quattro, quel che detto è detto ed è perfetto. Perfetto, oggetto della confusione, l'effetto di riflessione di netto, infusione di intelletto, la passione, il dialetto, l'impassione, il cervelletto e l'esplosione, l'aspetto dell'esecuzione, la mia SD, inizio alla fine sia il vizio per le rime via, ozio il concime, ma per chi muore si deprime, il dolore ti sopprime, comprime il cuore con le spine, con amore così fine. Balance l'importance en cadence, l'influence danse dans le mirage de la nuit. La flamme du diable contamine la tessie. Je suis l'espèce qui prend de l'espace dans ces vides flashs. L'expression de l'innocence s'écrase dans cette guerre fade. C'est ma prière, Jésus-Christ qui chante les cœurs. Je vois que la douleur. Questo cielo perso, quello che spente ha perso. È tutto fumo e vento. Così sono disperso in questo fumo denso, forse che anche un verso volando arriverà. In questo cielo perso, quello che spente è perso, è tutto fumo e vento, una nuvola che va. E così sono disperso in questo fumo denso, forse che anche un verso volando arriverà. Uno, due, tre, quattro, quel che fatto è fatto, è stretto un patto. Perfetto. Love it. Did you get a chance?